Ok. Buonasera, ben ciao a ritrovati, tutti. ben ritrovati. Siamo alla seconda puntata del rovescio della medaglia e dopo lo strepitoso successo della prima puntata con picco di ascoltatori, eravamo, quanti erano, Progciu? Devo dire la verità o... No, numeri fittizi, chiaramente. Ah, sì, la prima puntata abbiamo raggiunto un picco di 15.000 ascoltatori. Ecco, infatti. Poi ci hanno scritto in questa settimana, ci hanno scritto da ogni angolo del globo, da ovunque, Melbourne. Ma il globo ha degli angoli? Angoli, no, gli angoli, angoli diciamo ottusi, ottusangoli. Sì, certo. Cioè, poi di ottusi ce ne sono abbastanza anche. Va bene, via, bando alle ciance, eccoci. Allora, oggi, come si era anticipato la scorsa volta, si era dato un'anticipazione, no? Si era mandato un pezzo così di anteprima, e oggi ci occuperemo, approfondiremo, ricordiamolo per chi non lo sa, cos'è il rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia è una ricerca del rock progressivo italiano e ci siamo dati questo criterio che partiamo dal nome dei gruppi con la lettera A fino ad arrivare alla Z. La prima puntata abbiamo ascoltato alcuni brani, alcuni gruppi con la lettera A e oggi nella seconda puntata siamo arrivati alla lettera B. E l'altra volta vi abbiamo lasciato con RIP, Requiescant in Pacem, del Banco del Mutuo Soccorso, un brano tratto dall'album omonimo Il Banco del Mutuo Soccorso del 1971 e ve lo riproponiamo per dare un filo di continuità a quella puntata scorsa. Però, diciamo, prima di mandare il pezzo, ricordiamo anche a tutti il sito. Ricordiamo il sito, che ovviamente saprete che è wombat.noblogs.org, il Twitter, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radiowombatfirenze e la nostra mail è postawombat@insiberia.net. Poi non si fuma in regia su via, cos'è? Non si fuma in regia su via, questi sono delle regole. I messaggi che ci hanno lasciato in settimana i nostri fan. Abbiamo fumato troppo la settimana scorsa. Basta, via. Allora, a questo punto partirei con il primo brano, ripeto, RIP, Requiescant in Pace, il Banco del Mutuo Soccorso. We'll be right back. soldato. Questi tra un Cristo e un Dio erano i Banco del Mutuo Soccorso con RIP. E vi ricordo solo una nota che il Banco del Mutuo Soccorso tra i gruppi considerati progressive di quegli anni sono quelli che hanno avuto più fortuna, perché comunque hanno continuato a fare sia concerti che pubblicare dischi fino a una decina d'anni fa. Poi il cantante purtroppo l'anno scorso, mi sembra l'anno scorso, è venuto a mancare, Francesco Di Giacomo. E comunque fino allora sono stati molto attivi, a differenza di molti altri gruppi del prog italiano. A questo punto vi facciamo subito ascoltare il secondo pezzo, che è tratto dal secondo album, che si chiama Darwin, che è un concept album ovviamente sull'evoluzione dell'umanità. Il brano, vi facciamo ascoltare solo un brano perché dura, mi sembra, sui 10 minuti, è La conquista della posizione retta, tratto da, ripeto, Darwin, del Banco del Mutuo Soccorso. No, intanto si va a fare la spesa e penso ora 10 minuti. Ci vediamo, torneremo. Ci risentiamo tra 10 minuti. antico e blu d'antica pietra, odore di bestia, orma di preda. Nient'altro vede il mio sguardo prono, se curva è la mia schiena. Potessi drizzare il collo oltre le fronde e tener ritto il corpo opposto al vento. Io provo, cavo e provo e ritto sto per un momento. Benissimo, benissimo. Allora, il prossimo gruppo che presentiamo sono i Biglietto per l'Inferno, o Un Biglietto per l'Inferno, però siccome siamo alla B, li chiameremo Biglietto per l'Inferno, che è stato un gruppo di Lecco formatosi nel 72, e, diciamo dalla critica. E sono considerati uno dei più influenti gruppi prog italiani di sempre e hanno prodotto anche loro un solo album, quindi un po' hanno fatto il botto, hanno dato tutto il meglio di se stessi, sia a livello musicale che anche di testi e poi via. E un aneddoto molto, come lo definiamo, simpatico, prog 2? Sì, triste, diciamo, simpatico, diciamo caratteristico. Un aneddoto molto molto particolare. Colorito? Nemmeno. Colorito, sbiadito. Sbiadito. Marmoreo, come lo definiamo? Vabbè, comunque, diciamo, nell'album, chiaramente anche questo omonimo, come tanti gruppi della scena prog dell'epoca, il cantante Claudio Canali, allora vabbè, facciamo, praticamente c'è un pezzo che manderemo ora nell'album che è Confessione, che è un po' come una sorta di come lo definiamo, di delirio, di sfogo verso questa entità religiosa, questo soggetto religioso, e di avversione, di disprezzo quasi. E il cantante Claudio Canali è entrato in convento, che fu questa scelta è nata dopo il forte dialogo con un prete proprio per quanto riguarda i testi di confessione. E noi da quest'album vi manderemo Confessione e anche vi manderemo la versione strumentale, che è un po' più corta della versione normale cantata, però è molto bella anche questa, sicché ora vi lasciamo con Confessione. Racconta, fratello, qual è il tuo peccato? Dimmi con chi, quante volte sei stato, hai detto bugie, hai fatto la spia, orsù, perché invece son fra di sei. Oh,

Ok. E questi erano i come per quelli che si sono appena collegati, che già mi sa erano 748, mi sa che si sono collegati negli ultimi due pezzi. Sì, 7,50. 7,50, grazie Proggio. Praticamente erano anche c'è stato il fantastico mix della mano professional. Era come erano il biglietto per l'inferno, confessione e confessione strumentale. E con loro abbiamo presentato i due pezzi. Il prossimo gruppo ce lo presenterà Progchu invece. Allora, il prossimo gruppo si chiamano Bella Band e sono un gruppo, un quintetto fiorentino, e anche loro hanno realizzato un solo album. E però questo unico album stampato dalla Cramps nel 1978, la stessa, vi ricordo, che pubblicava anche gli Area. Questo gruppo si è formato nel 78. Il batterista veniva da un altro gruppo prog, sempre fiorentino, che vi faremo ascoltare prossimamente, che sono i Campo di Marte. E anche questo gruppo è durato diciamo un solo anno, perché poi il batterista, dopo aver lasciato il gruppo Bella Band, entrò nel gruppo. In un altro gruppo storico fiorentino, però rock and roll, i Dennis and the Jets, al quale si unì più tardi anche il sassofonista Roberto Buoni. E vi facciamo ascoltare da questo album un solo pezzo che si intitola Fai da diesis. E questi sono i Bella Band. Thank you. questi erano i Bella Band, il quintetto fiorentino, che come avrete sentito hanno più che un prog puro, hanno molte influenze jazz, free jazz, a differenza di quello che diciamo che abbiamo ascoltato finora. Allora, presentiamo il prossimo gruppo. Il prossimo gruppo sono i Buon Vecchio Charlie. Il Buon Vecchio Charlie è un gruppo di Roma che si formarono nel 70 e uscirono con l'album, anch'essi con l'album omonimo Buon Vecchio Charlie, che però diciamo la sua prima uscita uscì in CD nel 90 in un'edizione limitata, sicché diciamo la particolarità di questo gruppo è che hanno fatto un album solo che non è mai uscito, ossia è uscito diversi anni dopo, perché hanno cominciato a registrare tipo nel 72, ma poi con molta calma, e se la sono presi con calma, è uscito nel 90, 18 anni dopo, e quindi va bene. Anche perché penso il cantante mi sembra sia un personaggio un po' particolare. Sì, che tutti conoscerete, il Richard Benson, voce e chitarra, che ancora oggi fa la sua porca figura su Roma e non, facendo questi spettacoli tra il, non lo so come definirli, tra il grottesco, sì, il ridicolo, il grottesco, e diciamo un'autoproclamazione di se stesso in chiave fatalista, non lo so, comunque con poca musica, comunque. Con poca musica, quasi nulla, almeno quello che si è visto noi. E di quest'album, che anche questo ha riscosso una buona critica, e volevamo presentare Venite giù al fiume, che è un pezzo, che è un lavoro molto originale con momenti molto interessanti, e questo sono i Buon Vecchio Charlie, e il pezzo è Venite giù al fiume. We'll be right back. Sono stato al fiume per essere battezzato. Sono inciampato in una radice e sono caduto giù. L'acqua era profonda e il predicatore debole. C'erano anche i contadini che restavano. Ed ora posso assicurarvi che non c'è niente di strano. We'll be right back. Eccoci di nuovo qui. Allora, vi ricordiamo ancora, abbiamo chiuso con i buon vecchio Charlie. E vi ricordiamo ancora il, vi diamo un po' di dati tecnici informativi. E il nostro sito è wombat.noblogs.org e poi c'è twitter.com/radiowombatfi, poi c'è facebook.com/ radio-wombat-firenze e poi la mail se volete scriverci anche se è un po' intasata e quindi magari cioè, se non ve la fa mandare lì per lì riprovate riprovate riprovate riprovate perché c'è la mail che bolle la posta che è posta wombat@insiberia.net. Benissimo, allora abbiamo appena ascoltato con un finale abbastanza flauteggiante, hard rockeggiante pure, oserei dire un po', via. No, proprio Sì, un finale in crescendo un po', sì, più sull'hard rock. Allora, ed erano i buon vecchio Charlie. Il prossimo gruppo che presentiamo invece sono gli Sherry Five. Gli Sherry Five praticamente hanno anch'essi, ormai è una tradizione, noi si presenta solo gruppi da mono album, anche loro omonimi, quindi Sherry Five, che è l'album che uscì nel gennaio del 76. E praticamente alcuni dei componenti degli Sherry Five che in qualche modo era una formazione un po' come potrei dire un po' randagia perché non, diciamo, si erano uniti 4-5 componenti però tutto sommato non avevano un nome, il gruppo non aveva un nome e poi venne fuori questo Sherry Five che poi non corrispondeva ad un vero gruppo. Però possiamo una nota a loro favore di notevole importanza, almeno per me personalmente, visto che mi piacciono molto. Gli Sherry Five sono i, come si dice, premonitori, come si dice prima. Predecessori. Predecessori, ecco, vocabolario online, ci siamo un po' la rete delicata e ho provato a tradurla dal turcmeno all'italiano e non mi ha dato premonitori. Allora, cos'è premonitori? Premonitore è quando hai una sensazione che è quasi un presagio del futuro, no? Una premonizione è una sensazione che avverrà qualcosa. Quello che faccio io part-time Certo, allora, cioè quando finisco il lavoro faccio il premonitore, sì, lo ecco, chiami in un altro modo, ma è quello. perché mi avevano fatto il contratto da premonitore, però non sapevo che significava. E loro, gli Sherry Five, alcuni di loro poi sono andati a formare quelli che sono stati i Goblin, i fantastici Goblin, che conosciuti anche a livello mondiale per le loro colonne sonore. E, diciamo, possiamo anche fermarci qua, non è che i Goblin hanno bisogno di tanta Non hanno presentazione. bisogno, no, di molta presentazione. Non so se avrete notato la nostra nuova sigla iniziale faceva parte di un album dei Goblin, era diciamo, l'introduzione di un brano Era dei Goblin, Suspiria, era era Suspiria. Suspiria. E allora degli Sherry Five vi andiamo a presentare il primo pezzo che si chiama Country Graveyard e loro sono gli Sherry Five. Thank you. Benissimo, allora sempre degli Sherry Five, vi presentiamo The Swan is a Murderer Part 1 and Part 2, che verrà professionalmente mixata da DJ Prog 1 and Prog DJ Prog 2, e sempre degli Sherry Five, quindi The Swan is a Murderer. Mora, se sei in ascolto da Foggia, sentiteli, son belli loro. We'll be right back. Allora, con The Swan is a Murderer Part 1 and 2 chiudiamo questa full immersion negli Sherry Five, con gli Sherry Five. E il prossimo pezzo, siamo quasi in chiusura, vero? Ci siamo quasi anche per stasera, sempre con le lettere a C. Andremo ad ascoltare la Corte dei Miracoli. Corte dei Miracoli, un gruppo di Savona, il primo disco, appunto anche questo omonimo, del 1976, Corte dei Miracoli. Andiamo ad ascoltare E verrà l'uomo. Rocciù, mi devi venire più preparato all'esame, no? Diciamo che sulla Corte dei Miracoli... Non siamo mica a friggere con l'acqua, Rocciù. Sulla Corte dei Miracoli ero... pronto, te torni in trasmissione e si ero un po' impreparato. Poi ho appena mangiato un gianduiotto, quindi c'ho anche un problema di pronuncia. Con la dentiera. Madonna, ragazzi, siamo messi di molto bene. Allora, comunque, questi sono i Corte dei Miracoli. Diciamo qualcosa in più, però, che hanno fatto due album. Hanno fatto due album, il primo album, tra l'altro nel primo album, Procciù, c'è anche l'aiuto del chitarrista dei New Trolls, Vittorio De Scalzi. Un altro gruppo... Abbastanza conosciuto, che non ha bisogno di presentazioni. Sì. Che ha avuto alti e bassi, ma comunque ha prodotto anche della musica interessante. E l'abbiamo detto anche Procciù del secondo album di Dimensione Onirica. Il secondo album, e faremo ascoltare un altro pezzo di Dimensione Onirica, che è stato registrato tra il 73 e il 74, ma è uscito solo nel 1992 in CD, non è mai uscito il vinile. Quindi con molta calma questo, anche loro. Questo è un gruppo particolare, perché nella formazione originale prevedevano due tastieristi e non c'era la chitarra elettrica. Vero. Infatti l'album è orientato verso un prog, diciamo, abbastanza sinfonico. Sì, con appunto caratterizzato da questo intreccio tastiere e parti vocali. Sì. E infatti, diciamo che però la critica non è stata molto gentile nei suoi confronti. No, soprattutto per quello che riguarda le parti vocali, che secondo la critica non erano all'altezza della musica. A noi ci piace mandarli uguali, noi Against Racial Prejudice, perché noi facciamo Artist Prejudice, contro qualsiasi forma di pregiudizio, no? Si manda tutto, no? Certo, e poi comunque questa è una ricerca, una riscoperta che facciamo insieme. Vai. Insieme io e Prog 2 e gli altri 14.897 ascoltatori. gli altri ascoltatori. 14.896, perché mi sa che no, 899. Aumentano di continuo. Non possiamo star lì. E allora vi mandiamo La Corte dei Miracoli e verrà l'uomo. We'll be right back. Andiamo a sfumare questo pezzo con Puoi coltivare foreste di cemento. Fantastico, no? Mi siamo un po' sfociando nella metafisicità, ma poi anche, anche se sei andato a vedere un po' quelle che erano le copertine degli album, che erano dei capolavori e abbastanza metafisici, e quindi ci piaceva finire con questa frase molto, molto così, molto Metafisica, appunto. metafisica, sì. A Allora, questo punto siamo in chiusura siamo agli ultimi. e vi lasciamo con un altro pezzo della Corte dei Miracoli, del secondo album, che si chiama Dimensione Onirica, che è uscito nel 1992 ma registrato nel 73-74. Il brano si chiama Volando nel Sole, e con questo brano abbiamo Anche finito. per oggi abbiamo finito la seconda puntata. Siamo, ce l'abbiamo fatta. E sto leggendo le mail. Non ci chiedete il bis. Non ci No, chiedete il bis infatti. perché Prog 2 c'ha le mani consumate, ha suonato la tastiera. Poi su quelle tastieracce vecchie, cioè, ha trovato Sì, organi. un Hammond alla spazzatura. Ora, ha fatto degli assoli. Alcuni assoli erano fatti direttamente da Prog 2, dallo studio. E quindi è stanco e lo sentite pure un po' tra gianduiotti e Sì, sono un emozione. po' affaticato. Quindi andiamo a chiudere con Volando nel Sole, che abbiamo detto che è del secondo e ultimo album, vero? Perfetto. E vi presentiamo Volando nel Sole. Tratto da Dimensione Onirica. Come abbiamo detto prima, per oggi finiamo vince la seconda puntata del mondo rovescio della medaglia, e vi ricordiamo ancora che la puntata potete ascoltarla in podcast, in podcast andando sul sito wombat.noblogs.org. E grazie a tutti per ascoltarci, siete tanti, non si può ringraziare uno a uno. Ringraziamo il Paciuco che ci ha scritto prima. Sì, non so se vi ricordate l'intervento della radio del Wombate direttamente dal Sud America, ma purtroppo questa sera non si può collegare con noi. Sì. Perché alla fine stanno cercando, hanno venduto tutta la strumentazione per venire qua in Occidente, sicché sarà, diciamo che forse nelle prossime puntate ci sta che Radio Wombatti ci sta che sarà in diretta nei nostri studi. Speriamo di poterli avere ospiti, di avere ospiti tutta la regia, tutti i tecnici, il DJ. Nelle nostre prossime trasmissioni ospiti all'interno del nostro studio. Vi salutiamo tutti, vi ringraziamo dell'ascolto e alla prossima puntata del Rovescio della Medaglia. Ve lo ricordo, martedì prossimo, sempre alle 19, più o meno, perché ormai abbiamo questo consueto ritardo, questo elegante ritardo di 14-15 minuti, ma siamo abbastanza flessibili anche con l'orario, ma sì. Fa bene, un po' di ritardo fa bene. 7:15, questa società che ci vuole puntuali, ci vuole sempre pronti a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, dell'amico che vuole fare l'aperitivo arrivo, società molto frenetica, noi ci piace ritardare. E non ci piacciono gli aperitivi. Non ci piacciono gli aperitivi soprattutto. Allora a martedì prossimo e vi lasciamo con la Corte dei Miracoli, con la Corte dei Miracoli, uno sfumando con Volando nel sole. Ciao, vuoi dire qualcosa?